Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Big World e anche oggi 10 minuti da passare insieme per parlare di cose che possono interessare. Oggi parleremo di pubblicità. La pubblicità è una tecnica che ha pregi, difetti, che racconta verità, che racconta bugie, ma che principalmente omette di dire tantissime cose. La pubblicità sicuramente è nata con l'essere umano, che da quando esiste ha bisogno di mostrare agli altri umani le sue qualità, mentre cerca di nascondere i suoi difetti. È un'esperienza comune, come nelle relazioni amorose, avvenga che ognuno dei due evidenzia i propri pregi, come la virilità o la femminilità, la bellezza, l'intelligenza, e nasconda la propria insicurezza, la gelosia, la rabbia. Ognuno dei due si fa pubblicità sui suoi aspetti positivi e nasconde, per quanto ci riesce, come dicevamo, gli aspetti negativi del suo essere e tiene segrete tante cose che potrebbero influire sugli aspetti negativi e su un giudizio negativo del suo interlocutore. Le cose non dette, tra cui quelle segrete, sono poi quel tarlo che rode le fondamenta della relazione amorosa e col tempo, tante volte, produce grossi problemi di relazione fino a arrivare alla distruzione di quella relazione che era nata sotto interessantissimi auspici. Ma la pubblicità non riguarda solo la vita generica delle persone. Io vi riporto alcuni fatti, uno lontanissimo della storia. Vi ricordate della Sibilla Humana, questo vate che era in grado di prevedere e comunicava alle persone quello che sarebbe successo nella loro vita? La storia più diffusa sulla Sibilla Humana era l'interpellanza che le persone, i guerrieri che si preparavano per partire con l'esercito, era l'interpellanza che questi guerrieri facevano alla Sibilla per sapere se la loro vita sarebbe stata eroica, se fossero diventate persone da passare alla storia o se sarebbero, dopo la guerra, ritornati a casa a continuare la vita di tutti i giorni. A queste persone la Sibilla rispondeva: Ibis, redibis, non morieris in bello. Se la virgola si pone prima del non, il messaggio significa andrai, tornerai e non morirai in guerra. Se invece la virgola si pone dopo il non, il messaggio significa andrai, non tornerai e morirai in guerra. Con questo intelligente stratagemma, la Sibilla, che aveva perfino fatto innamorare il dio Apollo, continuava a trarre a sé i soldati che andavano in guerra, sia quelli obbligati dalle leggi, sia quelli che andavano volontari disposti a morire dopo aver ucciso tanti nemici, spinti dall'amor di patria e dalla voglia di essere eroi. Questa era la pubblicità di tanti secoli fa. Anche oggi, nella nostra società, la pubblicità ha uno spazio più che importante, importantissimo. Nell'era industriale in cui viviamo, tante aziende riescono a smerciare i loro prodotti non perché quei prodotti sono di eccellente qualità, ma perché sono fortemente pubblicizzati i loro pregi e vengono taciuti i loro difetti. Osserviamo la pubblicità sui prodotti alimentari che vantano il loro appetitoso profumo, il gusto prelibato, eccetera, eccetera. Ma noi quei prodotti non possiamo né odorarli né gustarli, perché li vediamo sulla carta oppure sullo schermo TV. Eppure i produttori ci convincono a acquistare quei prodotti che noi abbiamo visto sulla carta o sullo schermo TV perché ce li presentano in un contesto gradevole, con la presenza, per esempio, di una donna giovane e bella, o di un bambino innocente, o di un uomo dall'aspetto saggio e affidabile. Noi andiamo in negozio, acquistiamo quei prodotti e solo le persone intelligenti e critiche si accorgono che, oltre a quanto affermato nella pubblicità, quei prodotti contengono sì sostanze utili al corpo umano, ma anche sostanze meno sane che, nel ripetersi del consumo, producono assuefazione e qualche volta anche malattie gravi. Comunque, per le aziende produttrici tutto bene, perché vendono i loro prodotti, i soldi spesi per la pubblicità se li riprendono tutti caricandoli sul prezzo di consumo, quindi cosa potrebbero desiderare di più? Ma noi dobbiamo renderci conto che la pubblicità la paghiamo noi quando acquistiamo i prodotti, e paghiamo la pubblicità anche per quei prodotti che possono nuocere alla salute. Punto interrogativo. Vi faccio un esempio per pianificare l'idea della pubblicità che noi paghiamo in maniera incosciente e alle volte anche stupida. Se entriamo in un supermercato e andiamo nella sezione acque minerali, vedremo che ci sono tantissimi tipi di acqua minerale sugli scaffali e noi abbiamo la possibilità di scegliere se acquistare quella di colore, con la bottiglia di colore rosso, oppure con la bottiglia di colore blu, o con la bottiglia trasparente. Abbiamo la possibilità di acquistare la bottiglia che costa 10 oppure la bottiglia che costa 20. A noi la scelta. Mettiamo l'attenzione sulle due bottiglie che hanno costi differenti. Una costa 10 e una 20. Eppure, per commercializzare quelle bottiglie, tutte e due i produttori di acqua minerale hanno scavato un pozzo, hanno utilizzato una pompa per tirare l'acqua in superficie, hanno speso per imbottigliare l'acqua, hanno speso per trasportare l'acqua, hanno fatto il loro guadagno, più che legittimo. Ma come mai, se le operazioni che hanno fatto sono identiche, sul prodotto finale si riscontra una differenza fino al doppio. La bottiglia che costa 10 e quella che costa 20. Leggete con attenzione il nome dell'acqua minerale che costa 20. Poi, quando siete seduti a casa vostra davanti alla televisione, quel nome riappare. La pubblicità che voi vedete di quell'acqua che costa 20 la state pagando voi, perché quell'acqua che costa 20 come produzione ha il costo uguale a quella che è venduta a 10. Quindi ogni volta che facciamo un acquisto dobbiamo essere consapevoli che è la pubblicità che ci spinge a consumare quel prodotto e che quella pubblicità l'abbiamo pagata noi e che quella pubblicità, se non è ingannevole, sicuramente è omissiva. E allora si può concludere che paghiamo per farci ingannare. Succede proprio come negli esempi precedenti, di quando siamo innamorati, di come avveniva ai soldati che consultavano la Sibilla, di come quando ci lasciamo ingannare da un prodotto gradevole all'occhio, anche se non è profumato o di buon gusto, noi lo acquistiamo. Sia ben chiaro, in tutto questo non c'è niente di male, ma occorre essere consapevoli di quello che noi facciamo. Non siamo noi che scegliamo, ma è la pubblicità che sceglie per noi. Se non ce ne rendiamo conto, allora non siamo pienamente esseri umani, ma siamo cose da usare. Vi saluto e, se volete, al prossimo incontro da Radio Big World. Ciao!